Quando Geremia ebbe terminato di riferire a tutto il popolo tutte le parole del Signore, Dio loro, tutte quelle parole per le quali il Signore lo aveva inviato a loro, Azaria, figlio di Osea, Giovanni, figlio di Careca, e tutti gli uomini insolenti andavano dicendo contro Geremia: «Tu stai dicendo menzogna, non ti ha inviato il Signore Dio nostro a dire: non andate in Egitto per dimorarvi, ma è Baruch, figlio di Neria, che ti incita contro di noi per consegnarci in mano dei Caldei per farci morire e farci deportare in Babilonia». Giovanni, figlio di Careca, dunque, insieme a tutti i principi dell'esercito e tutto il popolo, non volle ascoltare la voce del Signore di restare nel territorio di Giuda. Poi Giovanni, figlio di Careca, con tutti i principi dell'esercito, prese tutto il resto di Giuda, quelli che erano ritornati da tutte le nazioni, dove erano stati dispersi per dimorare nel territorio di Giuda, gli uomini, le donne e i fanciulli, le figlie del re e tutte le persone che aveva lasciato Nebuzaradan, capo della guardia, con Godolia, figlio di Achicam, figlio di Safan, con il profeta Geremia e Baruch, figlio di Neria, e andarono nel paese di Egitto, poiché non vollero ascoltare la voce del Signore, ed arrivarono a Tafni. In Tafni la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: «Prenditi delle pietre grandi e nascondile nella malta, nel mattonato, all'ingresso della porta della casa del Faraone in Tafni, alla presenza di alcuni giudei. Poi dirai loro: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io mando a prendere Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servo, e metterò il suo trono al di sopra di queste pietre che io ho nascosto, e stenderò il suo padiglione sopra di esse. Verrà infatti e percuoterà il paese di Egitto, chi per la morte alla morte, chi per l'esilio all'esilio e chi per la spada alla spada. Io farò accendere il fuoco nelle case degli dei di Egitto, li brucerà, li deporterà e spidocchierà il paese di Egitto come il pastore spidocchia il suo vestito. Quindi uscirà di là tranquillamente. Frantumerà anche la stele della casa del sole che è nel paese di Egitto e brucerà con il fuoco le case degli dei di Egitto.